Legislazione israeliana di apartheid contro il popolo palestinese. Legge sull'amministrazione della terra del 3 agosto 2009. Lo scopo di questa legge è di permettere allo Stato di Israele di vendere a cittadini privati israeliani terre confiscate ai palestinesi e terre occupate dai coloni a Gerusalemme Est e sulle alture del Golan, o di trasferire la proprietà di terre dallo Stato di Israele al Fondo Nazionale Ebraico, le cui proprietà sono riservate in modo esclusivo ai cittadini israeliani, con lo scopo di garantire il possesso e la gestione agli israeliani, espropriando così definitivamente i legittimi proprietari palestinesi. La legge permette anche la privatizzazione di alcune delle terre su cui erano edificati città e villaggi distrutti durante la Nakba. Per gestire l'allocazione delle terre è stato istituito il Consiglio delle Autorità sulla Terra, costituito esclusivamente da membri del governo di Israele e del Fondo Nazionale Ebraico. La legge è contestata da associazioni per i diritti umani, in quanto la vendita da parte di una potenza occupante di qualsiasi bene che si trovi nei territori occupati costituisce una espropriazione dei legittimi proprietari e quindi contravviene all'articolo 147 della Quarta Convenzione di Ginevra, dal titolo «Appropriazione di beni non giustificate da necessità militari».